stanno prendendo corpo tutta una serie di questioni che avevamo già segnalato anche noi, nel senso che i prati di Caprara a ovest sono un'area che adesso, al di là delle preoccupazioni elettorali del PD che mi interessano relativamente poco, sono, secondo noi, non sono urbanisticamente in grado di ricevere una destinazione di quel tipo, per tanti motivi che adesso poi è lungo spiegare, ma insomma, secondo noi, l'abbiamo anche detto pubblicamente, ci sono dei gran problemi. Evidentemente sono venuti al pettine, a parte la mostruosità della scelta dell'Autot in generale in una zona così critica dal punto di vista urbano. La cosa è legata a presunte dichiarazioni che dovrebbe fare stasera il sindaco alla festa dell'Unità. Aspettiamo con ansia. Devo soltanto dire che rispetto alla scelta di fare qualcosa di simile a un outlet nelle aree ferroviarie, che poi sono quelle dello scalo Ravone, insomma, quindi immediatamente di là, dai prati di Caprara, è un'altra scelta assurda che preoccupa, dovrebbe preoccupare tutta la città, perché lì oltre all'outlet ci sono anche previsti, dovrebbero essere previsti più di 800 alloggi. Insomma, è una cosa che si teneva tutta nell'ambito del POC di rigenerazione dei patrimoni pubblici. Per cui è una buonissima cosa se l'outlet non ci fa. Non è tanto buona se si fa a 200 metri di distanza, volevo dire questo, ecco. Però in qualche modo possono avere pesato, insomma, le pressioni, le mobilitazioni che avete portato avanti come comitato? Ah beh, non c'è dubbio, perché non era ovviamente nelle nostre intenzioni, ma se quello che dice la Repubblica è vero, se si cominciano a preoccupare dei risultati elettorali vuol dire che in qualche modo, almeno quantitativamente, la nostra presenza è significativa. Forse sono state le 8.000 firme sulla petizione, più di 8.000 firme, o forse sono state le quasi 10.000 che abbiamo raccolto col FAI, però insomma non siamo più quattro gatti, e lo dimostra anche come veniamo considerati adesso in consiglio comunale, insomma, esistiamo, ci hanno riconosciuto, evidentemente forse creiamo qualche problema anche dal punto di vista elettorale. Tu stai facendo riferimento all'istruttoria, no? Al percorso che avete intrapreso. Sì, questa mattina c'è stata una commissione consigliare, anzi due commissioni consigliari, che hanno fatto un adempimento burocratico, hanno preso atto che le firme ci sono tante, addirittura su 2.531 firme solo 4 sono irregolari, e addirittura, insisto, 2.131 di queste firme sono di residenti in Bologna. Ecco, in questo caso firmare non era una cosa semplice, bisognava dare, come si fa spesso, insomma, documenti. Quindi era un'adesione strutturata a questa faccenda, probabilmente anche questo ha preoccupato, e questo lo devo dire senza falsa modestia, è un grande vittoria del Comitato Rigenerazione e Occupazione. Però i progetti che insistono sul bosco spontaneo sono due, l'ovest e l'est, rimane in piedi la questione della scuola e degli appartamenti? Certo che rimane in piedi, finché non riusciamo in qualche modo a portare avanti il nostro obiettivo, che è quello di cambiare la strumentazione urbanistica. Allo stato attuale delle cose, sui prati di Caprara Est rimangono oltre 1.200 alloggi di previsione. Questa scuola sciagurata, che in realtà è uno scempio di un bosco straordinario, come saprete già anche voi, e sui prati ovest, ammesso e non concesso che sia possibile farci qualcosa con le scoperte che abbiamo fatto noi, ci sono altri, anche lì alloggi, commercio, terziario, cioè rimane sostanzialmente invariata la previsione del POC, perché ti devi ricordare che il POC non prevedeva l'outlet, e quindi avrebbero dovuto fare la variante. Allora, se la potevano fare una variante per il POC, possono farla probabilmente anche per togliere la residenza. Quindi mi pare di capire che comunque la vostra battaglia continua, non si ferma anche qualora il sindaco decidesse di spostare l'outlet. Io penso che andremo avanti, perché a noi interessa la situazione urbanistica della città, voglio dire. Noi in particolare, come sai, ci occupiamo del quadrante ovest, i cui problemi con la ristrutturazione dello stadio non è che finiscano, aumentano. Pensa solo al traffico e a come viene gestito fino ad oggi. Per cui adesso festeggiamo con una certa, come dire, contentezza alcune vittorie, però la battaglia, la guerra, diciamo, è ancora lunga.